voce dopo questo pezzo, un progetto che ci è piaciuto molto. Per un altro contributo, come abbiamo anticipato già anche sui nostri canali, avremo il contributo di una compagna per poter parlare un po' con lei della situazione della psichiatria in generale, soprattutto nelle carceri, per soffermarci un attimo sulle REMS, le articolazioni psichiatriche, le sezioni Pronto? apposite. Ciao, ciao. Ok, Stavo ciao, parlando, ciao. ben trovata, è sempre un piacere averti con Ben noi. trovate anche voi, anche per me. Senti, allora, in realtà per noi oggi è un po' un pretesto, tra virgolette, il fatto che oggi, proprio il 26 maggio, la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi proprio sull'esistenza delle REMS, sulla loro costituzionalità o meno. E il tutto è partito da un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, e il motivo di questa incostituzionalità, non riesco a dirlo nemmeno bene, delle REMS è che la norma che le prevede, che poi in realtà credo che siano un paio, correggimi se dico sciocchezze, comunque in ogni caso queste norme sono lesive della competenza del Ministero della Giustizia, che solo al Ministero si può deputare l'onore di inserire nelle strutture le persone che risultano sottoposte a una misura penale. Quindi questa sarebbe la motivazione. Invece noi, come sappiamo, i criteri, insomma, di gestione delle REMS, perlomeno sulla carta, sono altri, sono norme di territorialità, norme che richiedono il non superare il numero chiuso massimo previsto all'interno della struttura, il fatto che all'interno della struttura ci sia una gestione solo sanitaria, insomma, tutti questi elementi vengono invece contestati e si ritengono incostituzionali. Ora, è ovvio che il nostro interesse non è assolutamente difendere le REMS, quindi partiamo sicuramente da questo presupposto, però è per noi l'occasione di innanzitutto parlare di questo che noi spesso definiamo isolamento nell'isolamento, e parlarne ancora, e soprattutto forse anche prendere atto del fatto che evidentemente c'è una parte del sentire non nostro, ma che in qualche modo rimpiange gli OPG. Evidentemente, ma anche manicomi criminali direi a questo punto, visto che i tempi che corrono, che già furono superati appunto dagli ospedali psichiatrici e giudiziari e diciamo da svariati anni, se non sbaglio proprio guarda, non vorrei sbagliare, ma è dal 2007 che si parlava proprio del superamento degli ospedali psichiatrici e giudiziari. Proprio perché insomma si riteneva, tu hai fatto una giusta premessa, diciamo che io voglio rafforzare, cioè quando si mette mani in questi contesti diciamo, è una cosa aberrante, per cui non è che c'è una soluzione, diciamo che privilegiamo, però giusto per rendere un po' chiara la situazione. Il superamento degli OPG era dato proprio dal fatto che le persone che si ritrovavano appunto internate all'interno erano persone che in realtà diciamo per quello che insomma, sì, la legge anche prevede, diciamo il senso più o meno comune, in realtà andavano diciamo seguite in un'ottica di superare l'ergastolo bianco, perché quello che accadeva appunto è che questa gente fosse internata là dentro e difficilmente veniva seguita, veniva curata, io questo termine lo metto tra virgolette, e quindi ci fosse poi un superamento delle cause principe che erano considerate questa, diciamo, vista qual è l'approccio psichiatrico organicista, quindi erano dovute da una malattia mentale, quindi dei problemi che evidentemente gli psichiatri ritrovano e riscontrano nel funzionamento del cervello, e quindi necessitava un approccio diverso. Quello che era richiesto era un approccio diverso, un approccio che coinvolgesse anche il servizio sanitario territoriale in una continua, diciamo, corrispondenza tra appunto i luoghi in cui veniva internati, quindi il personale che seguiva le persone all'interno di questi luoghi, e l'esterno, proprio in una visione di superamento e di ritorno alla società, diciamo così. Non so se vi ricordate, ci fu una visita, se non sbaglio, di, correggimi tu se sbaglio, ma di Marino, l'ex sindaco di Roma, che entrò nell'OPG di Aversa e ne uscì assolutamente scioccato per le condizioni che trovò all'interno. E da qui, insomma, iniziò a nascere questo movimento, questo dibattito politico sul superamento di quei luoghi, che erano appunto dei luoghi in cui la gente, cioè, se non ricordo male, c'erano anche persone che erano internate lì da oltre 40 anni, insomma. E questo, come tutti i processi di, diciamo, superamento di una condizione per entrarne poi in un'altra, che poi andremo poi a parlarne, però evidentemente in Italia sono lentissimi, ed evidentemente quando poi avvengono ci sono poi addirittura delle, da quello che dicevi tu, delle richieste ancora più reazionarie di ritornare, diciamo, ai vecchi tempi. E le REMS furono istituite, diciamo, nella pratica nel 2015, e diciamo, quello che sono delle strutture che esternamente in realtà ricordano parecchio diciamo il carcere, perché hanno barriere ai balconi, insomma sono anche perimetrate, e il controllo del perimetro esterno è affidato a forza pubblica o privata, ma all'interno, mentre appunto gli OPG dipendevano dal Ministero di Giustizia, per cui erano all'interno, il controllo era dato dalle guardie penitenziarie, nelle REMS all'interno non ci sono guardie penitenziarie. Come dicevi giustamente tu, sono strutture pensate abbastanza, diciamo, per ospitare non più di 20 persone, sono dislocate nelle varie regioni, qua a Roma ne abbiamo 3, e la più grande in assoluto è il vecchio e triste OPG di Castiglion delle Stiviere, che ancora è lì e ospita qualcosa come, se non sbaglio, 300 persone, è diventato enorme, perché è anche riferimento non solo della Lombardia ma anche di altre regioni. Che cosa succede, diciamo, per legge? All'interno delle REMS ci vanno i cosiddetti, definiti giuridicamente, i folli rei, cioè coloro che commettono un reato perché considerati appunto malati di mente, quindi prosciolti, diciamo, dal reato, e prosciolti proprio per vizio di, diciamo, mentale, ecco, di totale incapacità mentale, quindi hanno compiuto quel reato perché non erano in grado di comprendere esattamente, diciamo, di essere responsabili di quanto accadeva. E entrano lì, entro 6 mesi dovrebbe essere fatto un trattamento individuale sulla persona, e diciamo immediatamente sono chiusi, diciamo, vanno nelle REMS di riferimento della loro residenza, quindi nella regione, non sono più disseminati su tutto il territorio italiano, ma sono chiusi all'interno della REMS che fa parte della regione di provenienza, e da lì, diciamo, i servizi territoriali sanitari dovrebbero continuamente, diciamo, dialogare con tutto l'apparato medico che c'è all'interno delle REMS, e appunto redigere un trattamento individuale volto appunto al superamento della loro condizione. La condizione per cui si è lì, visto che appunto dal reato si è prosciolti, è la cosiddetta pericolosità sociale, un pregiudizio giuridico che ritroviamo anche in altri ambiti sempre giuridici, e la pericolosità sociale è quella che determina anche, per esempio, tutte quelle richieste di sorveglianza speciale che ormai, bisogna dire, piovono manco fossero, non so, caramelle. Sì. Caramelle, esattamente, richieste continue. E questa pericolosità sociale, che appunto nel caso di chi è considerato, diciamo, incapace di intendere e di volere, è una questione molto seria, perché a quel punto della persona che è internata nella REMS è responsabile sia lo psichiatra che lo segue all'interno e sia il magistrato di sorveglianza, il quale magistrato di sorveglianza nella prassi non farà mai una scelta contraria, o comunque non esprime competenze, ecco, da questo punto di vista, e si affida completamente a quelle che è appunto il giudizio dello psichiatra. Quando la pericolosità sociale inizia a scemare, queste persone possono entrare a far parte, di altri circuiti, che sono poi le case di cura e riabilitazione, insomma tutte quelle strutture sanitarie territoriali che seguono le REMS, dove inizia un vero e proprio reinserimento, sempre su carta, esatto, un vero e proprio reinserimento. Nella realtà, ne ho visitate perché seguivo appunto delle persone che erano all'interno, e c'è poco e niente, e quel poco che c'è, a nostro avviso non è neanche chissà quanto utile, perché è un luogo veramente di alienazione, dove viaggiano sigarette, caffè, televisore in continuazione, all'interno non c'è nulla. Io, quello che ho visitato, c'è una stanza considerata dedicata alla creatività, dove però non accade quasi niente, le persone sono abbastanza abbandonate a loro stesse. C'è una stanza di culto dove trovi una panchina che ricorda il cattolicesimo e poi un tappeto che ricorda invece la religione musulmana, questo è. Le persone sono bombardate da psicofarmaci, per cui la reattività è davvero scarsa, e in più c'è questa costrizione allo stare tutti insieme, con stimoli completamente assenti. E piano piano comunque sempre l'equipe che è all'interno di queste altre strutture redigerà delle relazioni, saranno vagliate tra virgolette, perché ripeto, il magistrato di sorveglianza si affida quasi esclusivamente, anzi direi esclusivamente, alla valutazione dello psichiatra, che saranno comunque sottoposti all'attenzione del magistrato di sorveglianza, che è, con tutti i tempi lenti della magistratura di sorveglianza, ci immaginiamo, penso che voi ne abbiate trattati abbastanza in altre trasmissioni, e quindi con i tempi lentissimi riceverà queste relazioni, valuterà, e poi c'è tutto questo iter che va avanti molto lentamente. Contemporaneamente a questa valutazione della consulta, grazie a questo esimio di Tivoli, sta nascendo un movimento che o comunque un dibattito, una nuova idea che purtroppo nasce anche da molte associazioni che comunque si ritengono avanzate, in cui in qualche modo si dice che è curativo il fatto che se una persona compie un reato, di togliergli appunto il giudizio di incapacità di intendere e di volere, quello parziale o totale, per cui succede quello che ho detto prima, perché diciamo la responsabilità è curativa e quindi la persona dovrebbe pagare insomma in qualche modo il reato che ha compiuto e non invece proscioglierlo. Quindi diciamo ci sono questi due aspetti. Dicevo che all'interno delle REMS entrano i folli rei, quindi le persone, come dicevo prima, e non i rei folli, che sono invece quelli che sempre per la... Pronto? Sì, ti stiamo mi senti? Ascoltando. Okay. Sì, sì, scusa, sì. No, perché evidentemente ho una telefonata sotto, pensavo fosse caduta la linea, scusami. No, no. E i rei folli che sono invece quelli che manifestano una sofferenza all'interno durante la loro detenzione nelle carceri. E, queste persone non possono diciamo entrare nelle REMS perché appunto questi comportamenti ritenuti diciamo sicuramente poco idonei da chi regola il carcere devono essere in qualche modo io dico trattati all'interno delle carceri, per cui si sono create in tantissime carceri dei repartini chiamati ROP, reparti proprio di osservazione psichiatrica, dove queste persone vengono inserite. Ora io faccio un esempio tra i tanti, c'è un reparto che è alle Vallette di Torino che guarda caso si chiama proprio Sestante e c'è stato un ragazzo che era stato arrestato, era entrato in sezioni comuni diciamo, a un certo punto tenta il suicidio e viene inserito in questo diciamo in questa sezione Sestante dove ci sono due reparti, uno è il settimo e uno è l'ottavo. Nel settimo sono inserite le persone diciamo in fase acuta, in acuzia, e all'interno di questa sezione c'è la cosiddetta cella nuda, quella in cui non c'è nulla, il letto inchiodato, il tavolo inchiodato, non c'è televisione, non c'è niente, all'interno ci dovresti stare pochissime ore. Ebbene, questo ragazzo c'è stato un mese, dopodiché è stato tolto da questa cella ed è stato portato nella sezione appunto nella, tra gli altri diciamo nella settima. Ora questi reparti diciamo sono ovviamente all'interno delle carceri, per cui sono gestiti dal personale penitenziario e dal personale medico. Noi sappiamo e ne abbiamo parlato tante volte e diciamo è stato palese durante questo anno e passa di emergenza sanitaria quella che è la sanità in carcere. Immaginiamo quale può essere l'approccio all'interno del carcere, dove tra l'altro gli stessi medici, lo stesso personale della ASL lamenta un'assenza di psichiatri, psicologi, infermieri, medici, per cui immaginiamo che cosa può essere. Immaginiamo un altro esempio, è stato proprio qui a Roma, Re Bibbia Femminile, dove una ragazza che era appunto tenuta nell'infermeria, in questo reparto, aveva chiesto una sigaretta alle guardie, le guardie l'avevano rifiutata, lei ha avuto diciamo delle forti esternazioni di rabbia e sono entrati praticamente in quattro guardie donne e si sono fatte anche aiutare da un maschio, da una guardia maschia, sono entrate, l'hanno presa a botte, l'hanno presa per i capelli, l'hanno denudata, l'hanno trascinata fuori da quella cella, l'hanno messa in un'altra perché non c'era la telecamera e poi l'hanno minacciata che se parlava insomma sarebbe successo altro. Per cui immaginiamo quale può essere la gestione della rabbia, la gestione della disperazione, la gestione della sofferenza. Ora, a questo vorrei ripetere che non siamo certo, non condividiamo approccio psichiatrico per cui ci sono appunto delle disfunzioni organiche a livello, diciamo, di cervello. Quello che riteniamo però è sicuramente quello che diciamo sempre per qualunque forma, diciamo, di malattia all'interno del carcere, è che il carcere è iatrogeno, nel senso che comunque ti crea delle patologie, e certamente, diciamo, il sottostare a dei regolamenti, a una routine che non ti appartiene, a una spersonalizzazione, la mancanza di affetti, eccetera, eccetera, è chiaro che determina una grossa sofferenza e una grossa, anche un grosso livello di non sopportazione, per cui poi diciamo, le reazioni sono quelle diciamo, soggettive a seconda dell'individuo, cioè chi enormi atti di autolesionismo, tentati suicidi o rabbia, e quindi aggressività. Però ecco, certamente non è riconducibile alla cosiddetta disfunzione diciamo organica. No, e anzi, sono in reazioni periodo, sane. Direi. In questo periodo di Covid, appunto, così come sono state gestite le carceri, quindi con questo totale isolamento delle persone che non hanno più avuto neanche quelle pochissime, io avevo letto l'altro giorno un articolo, insomma, che in un anno le persone detenute, quando va bene, hanno 72 ore di colloquio, ecco, in un anno, in 365 giorni, e quindi in questo periodo dove anche quel poco che c'è e ti è completamente sottratto e ti vivi tutta l'ansia che noi liberi, tra virgolette, ci siamo vissuti, immaginiamo là dentro, guarda caso sono aumentati gli atti di autolesionismo, sono aumentati tantissimi suicidi, adesso non ricordo i numeri perché non mi piace ricordare i numeri, ma credo siano stati molto alti. Diciamo proprio dall'inizio del 2021, insomma, stiamo già parlando di numeri molto alti, togliendo poi diciamo quelli, che ne so, i morti perché hanno contratto il Covid o insomma, e poi altre morti che magari non vengono catalogate come suicidi, ecco. Sì, sono altissime. Il 2021 si prepara già ad essere un nuovo record, sia come morti in generale che come morti accreditate come suicidi. Tu sai che, esatto, hai dati un po', esatto, di seguito, quindi siamo già a 58 morti e siamo neanche da gennaio? Da gennaio, sì. Ma davvero, vedi, 19, ecco, suicidi, mi ricordavo. Sì, 19, ecco, accreditati, ecco, come suicidi, esatto, 58 morti totali. Guarda, tra Covid l'anno e non scorso COVID. I suicidi mi sembra fossero 67, cioè sì, persone, insomma, persone, per cui siamo a dei livelli altissimi, no? Tra l'altro la maggior parte avvengono in isolamento sanitario, infatti anche nella corrispondenza che abbiamo avuto prima con un compagno dell'Assemblea NoCPR di Torino, con cui ovviamente siamo partiti dal caso di cui sicuramente saprai, purtroppo, sì, accreditato come suicidio, era in isolamento sanitario nella sezione, sì, lì del CPR che viene utilizzata per isolamento sanitario. Isolamenti, sì, che tra l'altro sono ormai in modo ufficiale da parecchio, da tutti gli organismi della salute mondiali, identificati, equiparati alla tortura. Quindi non, davvero non capisco come ancora, cioè lo capisco nel senso, sì, che, sì, di sanitario, sì, non c'è niente, invece è tutta repressione. Beh, se pensi che avevano anche dichiarato, insomma, con dati ufficiali, che la maggior parte dei tentati suicidi avvenivano proprio nei primi giorni di detenzione, dove sei messo comunque in isolamento, non sei inserito all'interno dei, diciamo, delle sezioni, no? E quindi c'hai quei giorni che te li passi lì con tutto quello che hai lasciato fuori, nella solitudine più totale. Adesso chi entra deve passare almeno 14 giorni di isolamento per la quarantena, quindi immaginiamo, neanche gli avvocati potevano entrare a trovarli perché era chiuso a chiunque, il carcere era un fortino di segregazione, e quindi immaginiamo quale può essere, diciamo, il peso, no, che una persona si deve vivere. Inoltre, poi, tra l'altro, perché spesso anch'io devo dire, sono caduta in questo errore quando sentivo un suicidio, poi magari mi leggevo e venivo a sapere che era prossimo alla scarcerazione, tu dici, vabbè, magari non è un suicidio, chissà che è successo, e invece no, accade proprio perché magari c'è anche il timore, no, di non essere in grado di affrontare la vita All'esterno, fuori che ti certo. aspetta all'esterno, di non essere più adeguato, di pensare chissà chi troverò, chi non Stigmatizzato. troverò. Stigmatizzato Certo, per la tua vita, certo, per quello che sei certo. stato costretto a subire. Sì, infatti non è un E caso che sia così difficile anche l'inizio che dicevi tu dell'ingresso in carcere, perché proprio perdi completamente il mondo che avevi fino a quel momento e che conoscevi fino a quel momento per essere catapultato o catapultata in un altro. in un ambiente Comunque, ostile, poi, no? ostile, super Esatto. ostile. Mi veniva in mente mentre parlavi, però non ti volevo interrompere, che non solo l'isolamento, questo vale una considerazione non solo per l'isolamento sanitario, ma anche per le articolazioni, per le REMS in generale, che già dal nome, no, ti indicano che sono un qualcosa di sanitario. E poi di sanitario in realtà c'è molto spesso o niente o comunque pochissimo. E mi veniva in mente che in questo mese il garante regionale della nostra regione Campania, che va sempre abbastanza in giro per poi diramare comunicati stampa, ha visitato la REMS che abbiamo qui di San Nicola Baronia e l'articolazione psichiatrica che si trova nella casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. E parlando, vabbè, ovviamente ha minimizzato assolutamente tutte le osservazioni che sono state poste dalle stesse persone recluse all'interno, come per esempio la scarsa qualità del cibo o altro. Però, oltre a minimizzare questo, ha fatto una sola osservazione: era tutto perfetto, vaccinazioni in ordine, pulizie. Secondo lui era tutto perfetto, c'era solo una cosa dolente: non c'era neanche un medico. Neanche e questo l'ha scritto in comunicati ufficiali, cioè che ci imbrogliano. Sì, c'è da ridere, ma è un riso che a me fa ma una rabbia incredibile, come ci l'acronimo imbrogliano. No, quindi in isolamento sanitario, ora qualsiasi tipo di reclusione sia, da un cura. hotspot a un carcere, non c'è neanche un medico. Nelle REMS non c'è neanche un medico, quindi boh, non lo so. Beh, ma le REMS, l'acronimo è residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, Sì, cioè non è che sì, c'è, non, cioè non riporta proprio a sì. Sì, l'acronimo una. no, però diciamo anche come l'hai Sì, spiegato tu no. sulla carta, l'hai ben spiegato tu prima, sulla carta c'è tutto un percorso di reinserimento che dovrebbe, però senza Che i dovrebbe medici. scattare. Senza i medici, Senza i perfetto, medici, né perfetto. di base né di specialisti. Peccato, era tutto perfetto. Era tutto perfetto, sì, peccato che mancavano i medici. E questo ne, cioè, lo si dice proprio con un candore, questo mi ha stupito in modo particolare. E non so se. Comunque, diciamo, la realtà, quello che sta accadendo, infatti non capisco questo signore di Tivoli che si è così dato premura. In realtà, appunto, quello che volevo dire è che davvero in ogni carcere adesso c'è un piccolo PG. Cioè, non, nel senso, è tutto uguale a prima, con chiaramente la costante lamentazione delle guardie penitenziarie, che sono poche, che non sono in grado, e su questo ne sono certa, di gestire situazioni del genere. Però in realtà quello che si è creato sono dei piccoli, delle sezioni di OPG, perché sono all'interno del carcere, quindi è quello, per cui è come sempre cambiare tutto per non cambiare niente, insomma, non c'è nulla di diverso. Io, appunto, ho seguito poi anche le persone che stanno nella REMS, cioè io ho seguito una persona che aveva un reato veramente ridicolo. Ebbene, tra lei, e poi ha avuto questo passaggio, praticamente prima era nell'OPG, poi è passata nella REMS perché era avvenuto il passaggio giuridico e anche pratico, diciamo, beh, lei in tutto si è fatta ben 6 anni e mezzo. Cioè, dopo 6 anni e mezzo le è caduta la cosiddetta pericolosità sociale e ha potuto mettere, diciamo, ritornare diciamo, a riprendere in mano i fili della propria vita, ovviamente dopo 6 anni e mezzo di internamento in luoghi orribili, per cui immaginiamo quanto fosse, appunto, quali strumenti adeguati lei avesse. Quindi 6 anni e mezzo per un reato che in realtà, diciamo, sarebbe, che ne so, la pena massima, il tetto mi sembra fossero 2 anni neanche, ok? Per cui proprio la pena massima, perché era proprio una fesseria. Per cui anche questa proposta, appunto, che gira, che stanno facendo girare su, appunto, ridare dignità attraverso la responsabilità individuale, è, secondo me, insomma, considerati quelli che sono i tempi, quanto, appunto, sia ormai il carcere, ma manco più, cioè fra un po' depennano proprio la parola rieducativa, se mai ha avuto un senso, e anche la parola rieducazione, perché poi ci sarebbe tanto da dire, perché se uno deve essere rieducato a quelli che sono i canoni e i valori della società, aiuto, fa. Però voglio dire, verrà proprio depennata, cioè saranno luoghi in cui tu ci stai, sì, e là ci stai. Lo stanno già facendo, dando sempre più potere alla, diciamo, all'apparato muscolare della gestione, quindi di fatto lo stanno già facendo. Io c'era un'altra cosa di cui ti volevo rubare altri 2 minuti, che è una notizia che ho letto in realtà poco prima dell'inizio della trasmissione, di cui non ero a conoscenza, e che nei miei soliti boli pindarici ho immediatamente collegato anche alla chiacchierata con te, perché, vabbè, tu sicuramente lo saprai, però... Non mi dire sicuramente, perché non è vero, mi metti in difficoltà. No, no, no. Sono io che l'ho scoperto adesso. Sono stata a lavorare... Sì. No, poverine, cioè non... No, no, no, guarda, era un esame. No, non mi sono dicendo. Preparata, diciamo. No, non era un esame, lo stavo dicendo. Allora... A inizio giugno, quindi praticamente tra pochissimo, il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa voterà una bozza di protocollo che si aggiunge alla Convenzione di Oviedo, che è una convenzione che si occupa di diritti umani, biomedicina, bioetica, credo che sia degli anni 90, intorno agli anni 90, adesso non ricordo con precisione, comunque che sancisce una serie di principi, anche di divieti rispetto, anche pratici, no? Rispetto alle tutte le questioni bioetiche. E leggevo che in questa bozza di protocollo che sarà votato, nel caso dovesse essere aggiunto, viene previsto il trattamento involontario e l'internamento involontario per le persone disabili. Quindi ovviamente per persone disabili si intende la vasta gamma in cui si rientrano anche la disabilità mentale, psichiatrica, eccetera. In più, oltre a parlare, io già quando ho letto la parola internamento involontario, diciamo, ho recuperato alcuni ricordi dritti. Anche di quando io ero piccina e mi è capitato di vivere da molto vicino ai manicomi. Comunque, tra l'altro, in questa bozza si rilancia l'idea della pericolosità sociale. Tant'è vero che questo internamento dovrebbe avvenire dopo proprio un provvedimento giudiziario, non sanitario. Non pone alcun limite temporale a questo tipo di trattamenti, sia al trattamento involontario che l'internamento involontario. E dulcis in fundo rilancia anche la giustezza della contenzione fisica. Perfetto. Quindi la leggevo poco fa, mi ha fatto venire dei brividi che dir poco, perché se penso che noi appunto ci battiamo tantissimo contro trattamenti che di sanitario non hanno nulla. nulla, ma sono delle forme di repressione e reclusione. Tu pensa invece se proprio a livello europeo inizi a passare l'idea che invece le persone che vengono etichettate come disabili psichiatriche, mentali, sia doveroso un internamento involontario, cioè senza limiti di tempo e con la contenzione fisica, quando noi abbiamo ancora morti Con di la contenzione fisica, contenzione, Livorno, l'ultimo di sì, pochissimo tempo ultimo, fa, che poi che veniamo sì, a conoscenza, ma chissà esatto, quanti esatto, altri ne muoiono in quei reparti degli ospedali esatto, senza che noi riusciamo neanche a saperlo. Però a quanto pare, cioè, l'Europa ritiene anche che la contenzione fisica sia legittima. Anzi, sì. sia curativa, appunto. Non so, io quando Guarda, l'ho letto. purtroppo questi tempi fanno sì che i brividi continuano a tornarmi, ma non mi stupisco più di nulla perché, voglio dire, la contenzione fisica ormai è prassi anche negli ospedali, anche nell'RSA, ok? Sì. Per cui nel momento in cui passa anche per coloro, diciamo, che si ritengono assolutamente non come si dice, che non, me, non so come dire, non, dove non è necessario, ma è solamente una logica anche di organizzazione del lavoro, no? Perché per questo viene fatto, nel senso ci sono po è poco il personale di servizio, in servizio negli ospedali e quindi non possiamo stare appresso alle persone che magari appunto hanno comportamenti che sono così sorprendenti, no? Che non è facile, diciamo, da seguire. Per cui Sì. passa in questo senso, no? Passa proprio come economia, diciamo, dell'organizzazione lavorativa, no? E quindi nel momento in cui passa a persone che uno magari dice vabbè però in fondo Porelli sono vecchietti, non se lo merita, eccetera, eccetera, figuriamoci con che, diciamo, arroganza possa essere poi proposta per persone sulle quali comunque c'è un pregiudizio, c'è una difficoltà di relazione perché spaventano, perché risultano essere imprevedibili, perché sono fuori dai canoni della norma, eccetera. Per cui adesso non vorrei allargare troppissimo, però anche la gestione degli stati rispetto alle vaccinazioni e tutto quello che ci siamo vissuti, diciamo, in quest'anno, no? Dove non so. Mi sembra che anche in Germania ci fu una persona abbastanza anziana che disse io non mi voglio fare il tampone e le fu fatto il TSO. Certo. E in Per Italia cui ce ne sono di in questi Italia, casi. esatto, quell'altro ragazzo Della che al mascherina, come? microfono, Ah, dimmi, tu. dimmi, io Ah, no, no, pensavo parlavo di quello in parlassi dello Sicilia, studente del della ragazzo in mascherina. Sicilia. Ah, Ah, sì. lo studente con la mascherina, certo, Sì. nelle Marche, no? Sì, E no. poi quell'altro ragazzo in Sicilia che osò prendere il megafono e Sì. semplicemente, diciamo, dire agli amici, alle persone del suo paese come lui la pensava, no? E gli è stato fatto un brutalissimo TSO, per cui diciamo, il pensiero unico è predominante e chi, diciamo, si allontana verrà trattato, sì, verrà trattato a loro modo. Sì, Per contro la sua cui volontà. contro la sua volontà anche questo, cioè se passa, se diciamo su anche la Corte Costituzionale, la stessa Costituzione, ci sono state tutte quelle cose contro, vabbè, ma che cos'è la cura? Ma può essere una cura diciamo imposta, Imposta. cioè tutti quanti hanno la possibilità, no, se proprio dobbiamo considerare cura il TSO, tutti hanno la possibilità di sceglierla, vabbè, sì, però se poi risulti pericoloso per te stesso e per gli altri, non ti diamo nessuna possibilità. E siccome i periodi sono neri, reazionarissimi, temo che questa, diciamo, proposta ha Possa buone passare. possibilità di passare, ha Sì, poi buone possibilità di passare. secondo me questi tempi neri vengono anche da tutta la sperimentazione che è stata fatta sulla pelle di tante persone, come dicevi tu, con la scusa del sanitario, del virus presente, eccetera. Quindi Certo. Nella pratica c'è già purtroppo, lo sappiamo da parecchio, però mi impressiona comunque il fatto che Certo. proprio l'Europa possa metterlo per iscritto con tanto di bollo, che si ritorni alla contenzione fisica come cura, Sì, davvero sì, è sì, sì, aberrante. sì. Sì. Beh, l'elettroshock non è mai sparito, No. ha solo cambiato nome. E la lobotomia adesso è sostituita dagli psicofarmaci, però voglio dire, non è È che sempre una per gabbia. cui sì. Però chiaramente con questa, appunto, questo noi fino adesso, i cosiddetti sani, liberi e sani, veniamo trattati attraverso ricatti, no? Cioè, se tu non ti vaccini o non ti fai il tampone, le tue libertà di movimento sono limitatissime, oltre allo stigma dell'untore, no? E quindi ti assumi tutta la responsabilità di tutte le conseguenze che questa tua scelta può Sociali, provocare sì. negli altri, per cui stiamo proprio, ecco. Bisogna resistere, resistere e resistere. Esatto, a questa, diciamo, questo quadro così nero che purtroppo non è che siamo noi che lo dipingiamo così, è così. Io direi però di lasciarci con l'idea che dobbiamo continuare a resistere anche parlandone, anche lottando nella quotidianità, nel piccolo, dal piccolo al grande. Va bene, Ci Antonia. sono, ci siamo. Beh, tu sì, lo so. Lasciamoci così, Va assolutamente. bene, ti ringrazio tantissimo Grazie, grazie per la tua a te, grazie a te, partecipazione e ci sentiamo presto. È grazie stato e un buona piacere. lotta. Un Ciao abbraccio a anche. tutti e a tutti. Ciao. Ciao.